Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Sarà una puntata in cui ci collegheremo anche spesso con Trento, dove oggi è iniziato il Festival dell'Economia. Noi saremo in Savadanaio, era in diretta da lì oggi, già altri programmi, anche Simone Spezia. Focus Economia sarà in diretta dal Festival domani. Gli studi di Radio 24, per chi volesse visitare, sono a Piazzetta Pasi, dietro il Duomo. Ma in realtà da questo punto di vista qualche notizia sta già emergendo. Mi riferisco al numero uno di Intesa San Paolo, fra poco lo ascolteremo, sul rapporto tra banche e prestiti, in primo luogo alle imprese. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, continueremo a seguire da vicino la vicenda dell'Ilva di Taranto, perché è cominciato a Palazzo Chigi il tavolo tra governo e parti sociali sull'emergenza dell'Ilva. Per il governo sono presenti il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi, ma anche i ministri dello sviluppo economico Flavio Zanonato e del lavoro Enrico Giovannini, presenti tutti i vertici sindacali, quindi Susanna Camusso per la CGIL, ma anche i vertici di CISL e UIL, per la Confindustria il direttore generale Marcella Panucci. La soluzione allo studio, lo ascolteremo fra poco, ne ha parlato Zanonato questa mattina ai microfoni di Radio 24, o un commissario unico, l'azienda continua a gestirsi e il governo decide di farsi il risanamento con un commissario ad acta. Due possibilità leggermente diverse che prevedono comunque la presenza di un commissario. In apertura, però, e anche nel corso del programma, ci occuperemo anche della vicenda Telecom Italia. Si è concluso da poco più di un'ora il consiglio di amministrazione di Telecom sullo scorporo della rete. Da quello che abbiamo capito si è astenuta Telefonica, quindi di fatto è passato alla proposta di scorporare la rete fissa dalla telecomunicazione, da quello che ci viaggia sopra, un po' come si discute per le ferrovie dello Stato, ma anche per il gas. Cioè, un conto sono i binari, la rete telefonica, altra cosa i vagoni che ci metti sopra, quindi i contenuti che ci fa viaggiare sopra. Di solito si dice che scorporare la rete da quello che era l'ex monopolista permette maggiore concorrenza sulla rete stessa, cioè chi poi ci porta sopra i vagoni, per usare questo esempio, si mette a più facilità a entrare in concorrenza e quindi viene vista in maniera positiva. Detto questo, come va il titolo, ma come va anche e soprattutto la borsa? Il titolo perde, è il più debole in questo momento tra quelle maggiore capitalizzazione, perde l'1,80% in una borsa complessivamente positiva di 0,5 punto percentuale. Milano, ma lo 0,80 guadagna anche Francoforte e Parigi, lo 0,40 rialzo di Londra, l'America più 0,40%. Euro quota 1,3044 in un giorno in cui molto si è temuto, vista la bruttissima chiusura di Tokyo questa mattina, un altro tonfo del 5,15%. Ma in realtà non c'è poi stata una conseguenza sui mercati, ne parleremo durante la borsa. Tra i titoli segnaliamo che va particolarmente bene Pirelli più 3,40%, Fiat più 2,80%, ST Microelectronics più 2,60% come UbiBank e Mediaset, il 2,5% lo guadagna Prismian, l'1,90% Unicredit, l'1,60% Intesa San Paolo e Fiat Industrial, ma anche Finmeccanica e Generali. 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Ancora per quello che riguarda altri temi di questa giornata economico-finanziaria, mentre mi fanno notare che l'incontro è terminato per la Chigi tra governo e parti sociali sull'emergenza Ilva, e ne parleremo più avanti. Dicevo, altre notizie di questa giornata riguardano, al di là della borsa di Tokyo, le previsioni sul petrolio. Interessante quanto dice Andy Hall, che è un nome poco conosciuto, in realtà lui è considerato il guru del petrolio, tant'è che le sue scommesse sul petrolio sono valse un salario di 100 milioni di dollari negli anni 2000 a Citigroup. Beh, dice che sostanzialmente il petrolio prodotto con le nuove tecniche di trivellazione, quello che permette di prelevare il greggio anche dai pori delle rocce impermeabili, è il cosiddetto shale oil, è un fenomeno che aumenterà solo temporaneamente la produzione, quindi invita a non farsi illusioni. Nel frattempo dagli Stati Uniti arriva il dato sulla crescita economica, rivista leggermente a ribasso, più 2,4% il PIL americano nel primo trimestre dell'anno, beni i consumi più 3,4% e tra l'altro tutto sommato il PIL nei primi tre mesi ha accelerato comunque rispetto al modesto più 0,4% fatto tra ottobre e dicembre dall'economia americana. Continua la settimana, veniamo all'Italia, delle aste, del tesoro, va bene il BTP a 10 anni, il tasso però torna sopra il 4%, al 4,14% rispetto al 3,94% di un mese fa, quando toccò i minimi dell'ottobre del 2010. Buona la domanda, 1,4 volte l'offerta. Risale anche il tasso del BTP a 5 anni. Risale al 3% contro il 2,84% di aprile, quindi abbiamo una curva che è ai minimi storici sul CTZ in scadenza di dicembre 2014, però vede rialzarsi i rendimenti nel medio-lungo termine, 5 e 10 anni, segno di una qualche incertezza e preoccupazione soprattutto appunto sul medio-lungo termine. I disoccupati nell'area OCSE, l'Italia è quarta tra i paesi dell'area OCSE per percentuale di disoccupati tra i giovani che hanno meno di 25 anni, siamo quasi al 39% con un 11% di giovani che ha rinunciato a cercare il lavoro e il Presidente della Repubblica Napolitano chiede sostanzialmente di seguire l'esperienza che si sta facendo in Francia, dove si dà rilievo ai cosiddetti contratti di generazione, ossia il passaggio di testimone da un anziano a un giovane nei luoghi di lavoro, e combattere, chiede il Presidente della Repubblica, anche la deriva psicologica da parte dei giovani che si vedono senza prospettive e senza futuro. Si deve reagire anche a questo stato d'animo. Gli effetti, diciamo primi effetti anche del venir meno della procedura per deficit eccessivo dell'Italia. Da un lato vi è un leggero allentamento del patto di stabilità per gli enti locali virtuosi che non hanno rispettato nel 2012 i vincoli del patto, ma solo come conseguenza del pagamento di debiti pregressi. Mentre si amplia la platea di quanti possono ottenere pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione, vale oltre che per le imprese, infatti adesso anche per i professionisti, lo prevede l'emendamento dei relatori al disegno di legge sui debiti della pubblica amministrazione presentato oggi in commissione bilancio. Nel frattempo è ufficiale, i contribuenti avranno più tempo per consegnare il modello 730. Slitta infatti dal 31 maggio al 10 giugno il termine per la consegna da parte dei contribuenti dei documenti per ricevere l'assistenza fiscale e possono a loro volta gli intermediari fiscali, quindi i professionisti e i CAF, possono consegnare al contribuente la dichiarazione dei redditi elaborata fino al 24 giugno 2013 e non più il 17 giugno 2013. Sull'IVA, questa mattina è tornato anche il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, ospite di Radio 24, che ha detto in sostanza Saccomanni, ministro Saccomanni, sta lavorando per bloccare l'aumento dell'IVA. stata decisa precedentemente la partita dell'aumento dell'IVA. Il governo, se non fa niente, si trova l'IVA che aumenta di un punto, giusto? Sono 4 miliardi di euro che entrano nelle casse dello Stato, già spesi dal bilancio dello Stato attuale. Quindi per poter togliere quel punto dobbiamo trovare 4 miliardi che sostituiscano quell'entrata. Non so se è chiaro, no? Non è un'intenzione del governo aumentare l'IVA, è una cosa decisa precedentemente e che entra in funzione se non si disattiva la decisione. Per disattivarla bisogna trovare 4 miliardi di nuove entrate o 4 miliardi di tagli o una miscela tra le entrate e i tagli, in modo tale da riequilibrare questi 4 miliardi che verrebbero a mancare. Su questo Saccomanni sta lavorando, cercando di costruire una proposta che si avvicini il più possibile, tenendo conto che i conti sono quelli che sono, cercando di avvicinarsi il più possibile all'esigenza di salvaguardare il reddito delle famiglie e del mercato interno e delle filiere che producono per il mercato interno, con l'esigenza di continuare ad avere le risorse su cui si basa il bilancio attuale. E pensa che ce la si possa fare? Lo auspico, io spero. Spero di sì. Vedo Saccomanni, un ministro non arreso all'idea che bisogna lasciare l'aumento così come deciso in precedenza e non da noi, ma che cerca di trovare una soluzione. E ascolteremo anche altre dichiarazioni del ministro Zanonato in tema di Ilva, ma non solo, anche in tema di politiche economiche. Devo dire che da Trento è arrivato in questo momento dal nostro Stefano Totoro anche una dichiarazione del numero uno di Intesa San Paolo, Enrico Cucchiani, che ha commentato sia i dati OCSE di ieri, però è tornato anche sul tema della stretta sul credito alle imprese. Dice Cucchiani, dipende dai ritardi della pubblica amministrazione più che dalle banche. Ascoltiamo questo passaggio. Non trovo riscontro a questo nei numeri. Il deleverage italiano è inferiore al deleverage che è accaduto nel sistema bancario di quasi tutti i paesi europei. Mentre invece c'è stato un forte crollo della domanda di credito, punto primo. Punto secondo, spesso si fa confusione quando si guardano i numeri, perché si vedono delle evoluzioni che tengono conto delle rettifiche, quindi il credito non è diminuito. Quello che ha inciso sulla diminuzione del credito netto sono le rettifiche e gli accantonamenti, che sono delle perdite secche per le banche. La terza considerazione è che il vero credit crunch è determinato dai tempi anomali di pagamento della pubblica amministrazione. Quindi la prima soluzione del credit crunch è la normalizzazione dei pagamenti della pubblica amministrazione. Per carità, è giusto che ricordare che bisogna normalizzare i crediti della pubblica amministrazione, però questo non deve essere un alibi per il mondo bancario per non fare di più quanto a erogazione dei prestiti. Non lo diciamo noi, lo dice l'Europa, lo dice Mario Draghi, lo dicono tutti gli osservatori, George Soros. Insomma, le piccole e medie imprese italiane soffrono più delle piccole e medie imprese di altri paesi dell'area euro, e c'è un problema ormai riconosciuto anche a livello di Bruxelles nell'erogazione dei crediti al sistema di imprese italiano oltre che alle famiglie. Non sto dando la colpa solo alle banche, non ci sono probabilmente anche i piccoli e medi imprenditori che portano piani a breve, non di investimento, non per stabilimenti ma per spese correnti o magari per pagare i fornitori, però non diamo nemmeno solo la colpa ai piccoli imprenditori. Cioè, è innegabile che, ce lo scrivono ogni volta i direttori di filiale, che l'ordine di scuderia è stato concedere il minor numero di crediti possibili, e sappiamo che le banche stanno rimettendo a posto i bilanci anche facendo altro, cioè comprando titoli di Stato e non solo. Nulla di male, però insomma la banca non nasce per accogliere risparmi e comprare titoli di Stato, nasce per accogliere risparmi e reinvestirli sul territorio attraverso una sana e prudente gestione, non dimentichiamocelo mai. E questo per quello che riguarda l'intervista a Cucchiani. Veniamo alla vicenda Telecom Italia, perché insomma su Telecom Italia è passato, ma adesso lo commenteremo, l'idea dello scorpo della rete. La prima tappa, se ho ben capito, sarà l'apertura del confronto con l'Agenzia per le Comunicazioni, l'AGCOM, per verificare l'assetto di un caso che farebbe da apripista per il settore. Il futuro della nuova società, infatti, la NewCo, come si chiama in gergo, cioè quella che dovrebbe gestire la rete, è legato alle decisioni dell'Authority, che dovrà avviare le analisi di mercato e le consultazioni pubbliche per ridefinire la regolamentazione e i costi di accesso. Anche per questo la valorizzazione, cioè quanto vale l'attività da scindere la rete, varia come valutazione tra i 13 e i 16 miliardi di euro e dipenderà tra l'altro dai prezzi di accesso, perché poi gli altri operatori, come per qualunque rete, dovranno pagare un prezzo d'accesso e dalla remunerazione degli investimenti che verrà definita dalla GCOM. Solo in una seconda battuta, in caso di accordo sul quadro normativo, il progetto potrà poi essere concretizzato affrontando anche il tema dell'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti o di altri investitori nelle rispettive quote. Su questo è intervenuto il ministro Zanonato, sempre questa mattina a Radio 24. Io voglio dirle un principio di funzionamento di tutto: laddove si mettono in discussione interessi nazionali, le reti, c'è sempre un fortissimo interesse dello Stato italiano e di questo governo. Noi vogliamo vederci bene dentro e faremo tutte le iniziative che servono a garantire gli interessi del Paese. Così appunto Zanonato. Nel frattempo la commissaria europea per l'agenda digitale ha annunciato oggi l'intenzione politica di presentare entro Pasqua 2014 un pacchetto legislativo che metta fine ai costi di roaming, cioè vuol dire quando tu vai col tuo telefono all'estero paghi di più, paga anche chi ti chiama, perché tu in realtà sostanzialmente, se anche viene chiamato, paghi. Lo sapete tutti come funziona il roaming, la parte, diciamo, che va dalla frontiera fino a dove tu stai. Vuole garantire la Commissione europea la net neutrality, quindi insomma il fatto che ricevere una telefonata dentro l'area dell'Unione Europea sia uguale in tutta l'area. Devo dire che non c'è nulla di strano, mi sembra un po' un conto, visto che siamo un'area unica, si potrebbe anche arrivare a, diciamo, a un'unica, cioè la mobilità delle persone fisiche. Auspichiamo anche la mobilità a prezzo invariato dei telefonini delle persone fisiche. La Croes ha detto che vuole far sì che i candidati possano dire agli elettori che possiamo mettere fine ai costi di roaming. Ma intanto partiamo dalla borsa su questo per vedere come ha reagito il titolo Telecom, e poi ne parleremo anche con gli esperti del Sole 24 Ore. Dicevo, Telecom oggi non è andata bene, in realtà ha ritracciato meno 1,70% Telecom Italia, perdeva anche qualcosa di più. Il secondo peggior titolo è Eni, meno 1,40% come Ansaldo STS, poi la Pop Milano meno 1,1%, Saipem meno 1%, mentre il miglior titolo è Ubibanca più 3,5%, Pirelli più 3,20%, Estima Electronics più 3%, come Fiat, Prismian più 2,80%, Mediaset più 2,5%, Fiat Industrial più 2%, Unicredit più 1,70%. Telecom Italia ritraccia 63 centesimi di euro per azione. Allora facciamo la borsa e poi analizziamo il caso Telecom Italia. Ciao Condina, Radio Colli sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Partiamo facciamo il resto della borsa e chiudiamo con Telecom Italia, così poi ho gioco facile nel commentare il perché dello scorporo. La prima cosa che mi viene in mente è che tutte le borse, anche quella americana, hanno snobbato il calo fortissimo di Tokyo, meno 5%. Sì, così come i risultati sotto le attese dell'occupazione americana, che ha visto un netto aumento dei sussidi di disoccupazione. Evidentemente, insomma, le attese ancora per delle politiche monetarie accomodanti, la cui necessità è stata ribadita ieri dall'OCSE, continuano a sostenere le borse, questo fiume di liquidità che evidentemente gli operatori si attendano venga ancora utilizzato per acquistare azioni. Quindi quindi le borse principali sono positive. Milano sta chiudendo in questo momento con un rialzo di mezzo punto percentuale, così come Parigi. Francoforte fa più 0,7%. E questo per quello che riguarda, insomma, le borse complessivamente date. Bene oggi tra i titoli, sottolineo a Milano in questo caso, le banche. Anche qui l'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato non ha influito. UbiBanca più 3,5, UniCredit più 1,70, Intesa più 1,5, Generali più 1,30, Monte dei Paschi più 1 e la Popolare Emilia Romagna più 0,80. No, assolutamente, oggi poi comunque c'è un mood positivo, diciamo un sentiment positivo nei confronti anche del sistema Italia, anche dopo quello che, insomma, che è accaduto sul fatto che l'uscita, insomma, dalla procedura dell'Unione Europea, e quindi sono ben sostenute le banche, ben comprati anche i titoli industriali. Vediamo la stessa Pirelli che grazie a una promozione di Goldman Sachs oggi guadagna il 3,2%, dicevi anche tu le banche di sistema come Intesa San Paolo e Unicredito che guadagnano più di un punto e mezzo percentuale. Andiamo adesso in meteo pubblicità, poi vorrei fare con te invece altri titoli di Pirelli, già accennavi tu, ma anche Fiat, attese sull'operazione con Chrysler, ma non solo, Mediaset, RCS, e poi chiuderemo con Telecom Italia. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. ...17:33, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Ciao Condina, dicevamo, al di là di Pirelli, delle banche, Fiat che sale parecchio, anche più 3,30%, e qui c'entra Chrysler e anche le dichiarazioni di John Elkann oggi. Eh sì, Fiat insomma prosegue un lungo rally in attesa di quella che dovrebbe essere la fusione dell'anno, cioè quella con l'americana Chrysler. Nello specifico oggi, in occasione dell'assemblea della holding, della controllante Exor, John Elkann ha ribadito, insomma, l'importanza di questa operazione, ma soprattutto c'è anche grande attesa sul mercato per quanto riguarda il maxi rifinanziamento da 10 miliardi che dovrebbe consentire a Fiat appunto di portare a termine questa operazione, che comprenderà l'acquisto delle minoranze di Chrysler e poi il rifinanziamento di alcuni debiti. Ancora per quello che riguarda i titoli, segnaliamo oggi in recupero anche Mediaset. Intanto vi do i titoli negativi: oltre a Telecom Italia meno 1,70 c'è Eni meno 1,40, Ansaldo STS meno 1,30, Saipem meno 1, Popolare Milano meno 1, Lottomatica meno 0,60%. Ma dicevo, Mediaset è più 2,80%. E su Mediaset, diciamo, non ci sono. Posso aggiungere anche RCS, così teniamo assieme i titoli editoriali. Sul risparmio più 13,85%, Mediaset e Rizzoli Corriere della Sera. Su Mediaset, diciamo, oggi non ci sono notizie particolari, cioè, però gli operatori però segnalano la ripresa di un rally significativo che, insomma, come tutti ormai sappiamo è partito dallo scorso dicembre e poi si è rafforzato anche col passare dei mesi, essenzialmente per due motivi: sia perché la prima trimestrale di Mediaset comunque in controtendenza rispetto al settore editoriale è stata buona, è stata positiva, sia perché comunque col fatto che Berlusconi sia effettivamente al governo, diciamo, gli operatori non si attendono a provvedimenti particolarmente aggressivi nei confronti dell'emittente. Per quanto riguarda RCS, invece, è ancora in corso l'assemblea per l'approvazione dell'aumento di capitale. L'assemblea invece ha già dato il via libera al bilancio e, insomma, già questa è una prima notizia positiva. Vedremo, insomma, il proseguo dell'assise. Allora, su Rizzoli Corriere della Sera, sempre il numero uno di Intesa San Paolo, Cucchiani, ne ha parlato oggi con Stefano Totoro sull'assemblea. Chiaramente ne ha parlato questa a metà giornata, però già mostrava un certo così ottimismo. Da quello che ho sentito sta andando tutto in modo sereno. Penso che si faccia l'aumento di capitale e che si vada, come dire, alla ricerca di un percorso di convergenza anche fra tutti i soci e tutti coloro che sono coinvolti nella definizione del futuro di RCS. La mia opinione è che le aziende debbano essere gestite sempre nell'interesse di tutti i soci, senza distinzione, in funzione della dimensione, e credo che la cosa migliore sia comunque quella di individuare un percorso condiviso dal maggior numero possibile, dal numero più ampio possibile di soci. E poi dicevamo del calo di Telecom dell'1,3% di cui parleremo subito. Vi do solo i migliori e i peggiori. I migliori, diciamo, Rizzoli. Peggiori invece Telecom Italia Media, anche sul risparmio, meno 7,40, Mondadori meno 5,37, Stefanel meno 4,18, Carrefour meno 4%. Grazie a Ciao Condine, a Radio Corriere, Sole 24 Ore. Parliamo adesso di Telecom Italia, però devo leggere rapidamente tre messaggi in tema di prestiti delle banche alle imprese. Allora, scrive un direttore di filiale di un grosso istituto bancario nazionale: ogni pratica di fido oggi viene, anche con un buon rating, viene tagliata. Per quanto riguarda le revisioni non se ne parla nemmeno. Come si fa a far banca in questo modo? Con quale entusiasmo lavoriamo o quale entusiasmo possiamo trasmettere ai nostri collaboratori? E poi un altro direttore di banca dice: attenzione, le banche non stanno comprando con i soldi avuti in prestito dalla Banca Centrale Europea, 270 miliardi nel complesso, le banche italiane, su 1.000+ miliardi dati dalla Banca Centrale Europea, le banche dell'area euro, dicevo, non stanno comprando solo titoli di Stato, i nuovi depositi di residenti vanno soprattutto ad acquistare obbligazioni di altre banche, come dimostrano le tabelle della Banca d'Italia. E poi c'è un dato in effetti abbastanza: le riserve in eccesso per circa 40 miliardi presso la Banca Centrale Europea, cioè le banche preferiscono depositare i soldi presso la Banca Centrale Europea che impiegarli. Ripeto, non sarà tutta colpa delle banche, ci saranno anche progetti cattivi, richieste di credito per non per investimenti ma per spese correnti, però non si può andare avanti così. E invece chiudo con un messaggio più positivo. Il direttore di una banca di credito cooperativo dice: saremmo ben lieti di fare credito alle aziende che vogliono investire. Beh, ci dica anche dove lavora e la facciamo finita. Antonella Olivieri, buonasera, alle Sole 24 Ore. Ciao Sebastiano, scusami, volevo, dimmi, prima di parlare di Telecom darti una informazione in diretta, perché sono all'assemblea di RCS. Ah, tutte e due le sei fatte oggi, perfetto. Sì, ecco, c'è stato un intervento molto duro dell'avvocato Sergio Erede per una finanziaria di Della Valle. Ha pronunciato voto contrario all'aumento di capitale perché sostiene che il piano è inadeguato e già obsoleto e che il piano finanziario continua ad essere a svantaggio degli azionisti e invece sempre, diciamo, a tutela delle banche. Delle banche creditrici. E quindi Erede che votava a nome di Della Valle? Di una finanziaria di Della Valle. Perché in realtà ci sono, se non ho capito male, tre avvocati che rappresentano diverse parti dell'azionista Della Valle. Mm-mm. Quindi bisognerà anche vedere, poi il voto non c'è ancora stato, ma per questa finanziaria c'è stato preannunciato il voto sfavorevole di Della Valle. Mm-mm. Con un'argomentazione anche, diciamo, molto molto critica. Sì, Della Valle da sempre molto critico col patto di sindacato che regge il gruppo Corriere della Sera, da cui è uscito. Sì, ma tra l'altro, ultimamente si pensava che si fossero avviati dei discorsi per cui che almeno Della Valle non avrebbe ostacolato un aumento di capitale che per la società è obiettivamente indispensabile portare a termine, perché altrimenti l'alternativa è quella di andare a portare i libri in tribunale, cioè praticamente l'anticamera di una procedura concorsuale di tipo quasi fallimentare. Quindi. Sì, appunto. Una situazione che non vorremmo vedere, lo dico per solidarietà anche con tutti i colleghi del Corriere della Sera. Ancora, potrebbe adattare, si posso adottare un eloquio meno noioso, spocchioso? Sono spocchioso e noioso oggi? No, non mi sembra, siamo concentrati perché abbiamo tanti temi. Comunque, vabbè. Andiamo avanti invece con i nostri temi. Antonella, perché tu hai seguito anche l'assemblea di Telecom Italia. Allora, il consiglio, scusami. Allora, intanto hanno deliberato lo scorporo della rete, sì. Perché, sì, perché si è astenuta anche Telefonica, che è il socio forte, esatto, la compagnia spagnola che ha il 46%. Era il socio industriale contrario a un'ipotesi che poteva creare un precedente anche sul suo mercato, però il suo mercato è diverso perché lì diciamo c'è una concorrenza infrastrutturale che è rappresentata dal cavo. È un'anomalia del mercato italiano insieme a quello della Grecia, che non hanno questa alternativa. Quindi i vincoli che gravano sull'incumbent che è di fatto il monopolio, sono molto più forti, ed è per questo che il management della Telecom Italia si è convinto di esplorare la strada dello scorporo della rete d'accesso, quindi dell'ultima parte che va dalla centrale fino all'utente, per verificare se è possibile recuperare in questo modo un po' di flessibilità operativa e commerciale. Ecco Antonella, come spiegavamo prima, però insomma, lo scorporo della rete è da un lato una cosa richiesta da tutti quelli che dicono per avere vera concorrenza occorre che l'ex monopolista, non parlo solo della rete telefonica, parlo anche del gas, delle ferrovie, l'ex monopolista sia completamente fuori dalla gestione dei binari, io li chiamo binari per far capire a tutti, quindi la concorrenza si fa sui vagoni, ma i binari devono essere di una società terza che non ha legami con nessuno dei soggetti che si fanno concorrenza sulla rete. No, ecco, non siamo assolutamente in questa fase. Eccoci. Perché da qui a quando ci sarà, intanto la società si andrà avanti, passerà almeno un anno e mezzo, sono tempi tecnici normali. Non ci sono precedenti a cui fare riferimento, perché nessuno si è spinto così in là, se non l'incumbent della Nuova Zelanda, ma diciamo è veramente un esempio molto lontano. Molto lontano e anche molto più piccolo. E comunque nella prima fase il 100% del capitale scorporato da Telecom sarà di proprietà Telecom. Su questa società c'è l'interesse all'ingresso della CDP, finora detto con una quota di minoranza, perché interverrebbe il fondo strategico che per statuto può soltanto rilevare quote di minoranza, però è tutto da vedere. Sì, la Cassa Depositi e Prestiti, mi sembra di capire che poi sarà anche importante capire, e lì lo deciderà l'Agenzia delle Comunicazioni, la GCOM, i prezzi di accesso e la remunerazione degli investimenti, cioè come farà i soldi questa società, perché la valutazione varia tra i 13 e i 16 miliardi, no? Sì. Cioè ballano 3 miliardi perché non si sa ancora esattamente come farà cassa e che ricavi avrà questa nuova società. Diciamo che è l'unica parte veramente regolamentata del business, nel senso che è la parte in monopolio naturale. E quindi la remunerazione di questa parte evidentemente dipende dalle tariffe che la regolamentazione concederà alla Telecom, alla Newco, insomma, della rete di applicare. E per cui certo. Allo Stato è un'attività che rende molto bene, perché la rete fissa ha un margine EBITDA superiore al 50%. Quindi diciamo che non ci sono, dovrebbe solo migliorare evidentemente con questa soluzione, però è anche vero che l'ingresso della CDP sarebbe subordinato a sveltire gli investimenti per accelerare lo sviluppo della fibra ottica, quindi di velocità di navigazione molto superiore a quelle a cui siamo abituati oggi. Allora, per quello che riguarda invece l'obiettivo, perché tu dicevi è un caso, è un primo esperimento. Allora, perché si arriva allo scorporo della rete? Nel senso che molti ascoltatori ci chiedono al 349-238-6666 perché noi siamo gli apripista, non che diano contro, ma vorrebbero capire le motivazioni. Appunto per questo fatto, almeno cioè questa è la tesi della Telecom, per il fatto che la regolamentazione è troppo soffocante e impedisce a Telecom di stare sul mercato col tempismo necessario con offerte commerciali che ritenga adeguate. Ci sono troppi vincoli che fanno sì che in sostanza la Telecom risulti essere un elefante ingessato, diciamo così. Quindi preferiscono liberarsi dell'ingessatura e concorrere sulla rete come gli altri, per forzare un po' il concetto. Esatto. Poi la proprietà della rete e anche della parte della rete d'accesso è un tema che è tutto. Abbiamo ascoltato prima Zanonato, il quale ha detto: beh, tutte le volte che c'è un interesse dello Stato, il governo deve dire la sua. Per cui, insomma. Ultima domanda invece che ti volevo fare: i tempi, perché tu già accennavi al fatto che sì, questo prima via libera non vuol dire che si vada verso lo scorporo della rete. Diciamo che sarà da verificare, visto che è un'operazione molto dispendiosa anche in termini di risorse manageriali e anche di azione certosina nel valutare tutti gli asset che sarebbero conferiti a questa nuova società. È evidente che uno sforzo di questo tipo si bloccherebbe se si verificasse che non si otterrebbero i benefici sperati, ecco. È chiaro, quindi è un via libera preliminare, diciamo esplorativo, dicevano così, no? Sì, esplorativo, però del resto se non fosse stata fatta questa delibera non si sarebbe potuti andare dalla Agcom per vagliare quali sarebbero i benefici applicabili a questa soluzione. Intanto valutano. Perfetto, grazie Antonello Olivieri in collegamento con noi, grazie anche per averci aggiornato sull'assemblea della Rizzoli Corriere della Sera e il no di Della Valle, di una delle società di Della Valle rappresentata dall'avvocato erede all'aumento di capitale per il gruppo Rizzoli Corriere della Sera. È un aumento di capitale fondamentale perché, come ricordava Antonello Olivieri, altrimenti il gruppo rischia di entrare in uno stato prefallimentare. Aumento di capitale vuol dire che si chiede ai vari soci, ai vari azionisti di mettere altri soldi dentro il capitale, aumentarne il capitale. Ecco perché c'è chi dice sì e chi anche però legittimamente dice no, di non essere d'accordo motivando, come ha fatto l'avvocato erede per Della Valle, con un piano ancora inadatto e che non garantisce sicurezza. Adesso andiamo con il traffico e poi ci spostiamo invece a Trento, anche se noi ancora per oggi fisicamente siamo negli studi di Radio 24 qui a Milano. Dunque, molti messaggi sono arrivati durante lo stacco per il traffico, l'interruzione per il traffico sulla vicina Telecom Italia. Allora, a mio avviso Antonello Olivieri ha chiarito molto bene che è una decisione interna a Telecom Italia, che ritiene troppo vincolante per tutti i paletti che ci sono messi anche dall'autorità, dalla legge, mantenere la rete interna, e vuole andare a una valutazione di quanto incasserebbe scorporando la rete e quant'altro. E ha ragione a mio avviso chi dice che in questo modo noi ci dobbiamo, rischiamo, se facciamo entrare la cassa depositi e prestiti, di ricomprarci Telecom dopo averla venduta male. Devo dire, ma penso di essere in buona compagnia, che l'intera gestione della privatizzazione Telecom è stata da manuale di quello che non bisogna fare nella vita. Prima un nucleo duro dove c'erano dentro anche gli agnelli, ma che era troppo morbido per essere un nucleo duro, poi la scalata di Colaninno, poi Tronchetti. Non possiamo ripercorrere tutta la storia di Telecom Italia. Quello che è certo è che ai tempi in cui Telecom era ancora dello Stato, noi avevamo il primo gruppo di telefonia mobile che era TIM in Europa e il terzo che era Omnitel. Dopo tutto sto giro di giostra, Omnitel l'abbiamo venduto a Vodafone e non siamo più comunque i primi come operatori mobili. Per cui che nel corso dei vari passaggi di mano di Telecom Italia vi sia stata una distruzione di valore mi sembra abbastanza innegabile. Poi andiamo a vedere volta per volta chi, come, quando, perché, e va bene. Però insomma sicuramente non è il caso di un'azienda pubblica che tra l'altro funzionava benissimo. Fummo i primi a inventare le schede prepagate al mondo, lì c'era Pascale, i boiardi di Stato che delle volte non funzionavano così male, ma c'era anche Gamberale, delle carte prepagate. Un'azienda che era un gioiello abbia perso valore nel corso degli anni, questo mi sembra che sia abbastanza inattaccabile. Poi ognuno in base alla sua ricostruzione può dare la responsabilità ai vari proprietari in questi anni della Telecom. Dalla Telecom andiamo invece ai temi di cui si discute da oggi a Trento, nell'ottava edizione del Festival dell'Economia di Trento. Radio 24, ripeto, è con gli studi a Piazzetta Pasi. Domani saremo in diretta anche noi da lì. Il tema è molto affascinante, sovranità in conflitto. Sta parlando tra l'altro in questi minuti il premio Nobel per l'economia Michael Spence, uno dei due premi Nobel, l'altro è James Mirrlees. Vi sarà anche il segretario generale dell'Oxel Angel Gurria. Sovranità in conflitto, chiedo il perché di questo titolo e qual è l'obiettivo di questa edizione a uno degli organizzatori del Festival dell'Economia di Trento, ossia Alessandro La Terza, che tra l'altro è anche vicepresidente di Confindustria con la delega per il Mezzogiorno e amministratore delegato della casa editrice La Terza. Buonasera, dottor La Terza. Buonasera. Voi avete sempre avuto uno scopo, un obiettivo molto ambizioso, mettiamola così. L'affluenza non è mancata, vedremo come andrà quest'anno con il tempo, soprattutto perché il Festival dell'Economia sotto l'acqua, per carità, darebbe anche un senso di cos'è l'economia in questo momento, però allontanerebbe molti visitatori. Perché la sovranità in conflitto? Perché un tema centrale, uno dei punti di fuoco sicuramente del festival sarà la questione europea, cioè in che misura siamo impegnati in un percorso di unificazione europea, non solo dal punto di vista monetario, di tutte anche le contraddizioni che lungo questo percorso si incontrano. Ovviamente il tema sovranità in conflitto evoca anche lo scenario globale e quindi inevitabilmente ci si confronta anche sulla grande contraddizione rappresentata da quelle che sono le identità e le economie nazionali messe a confronto con invece un panorama in cui le carte inevitabilmente si rimescolano e si rimescolano continuamente. Quindi l'idea di un'economia che da un lato deve avere a che fare con un percorso di globalizzazione fortissima, ma dall'altro, come vediamo anche poi nella gestione europea, risente ancora molto della variabile politica nazionale, no? Cioè la Germania la pensa in un modo, l'Italia in un altro, la Francia in un altro ancora. Moltissimo, e con una, se rimaniamo sul piano economico, che ovviamente è centrale nel Festival di Trento, anche con la consapevolezza che da un lato l'Europa in questo momento complessivamente sta andando male, nello stesso tempo se noi ce la rappresentiamo come una costellazione di stati nazionali questa debolezza si moltiplica, pur essendo un aggregato molto forte che quindi può avere ancora una voce significativa sulla scena globale. Si tratta appunto di passare dall'Europa intergovernativa all'Europa degli europei e quindi, come dire, uno scenario di unità o di Stati Uniti d'Europa, come ama dire anche il presidente Squinzi. Ecco, mi riallaccio alla citazione di Squinzi, perché lei è anche vicepresidente di Confindustria. Allora, come e quale interesse potrebbe avere, voglio essere molto diretto, un piccolo imprenditore che in questo momento vede un'enorme difficoltà a trovare credito nelle banche, mercato interno in stagnazione, anzi in recessione, l'unica possibilità nell'export, perché dovrebbe essere interessato un imprenditore ai temi che voi proponete? Beh, potrebbe essere interessato a temi che mi rendo conto non sono di immediata popolarità dal punto di vista mediatico, ma possono essere decisivi, perché nel riprendere per esempio lo spunto o l'idea che è stata presentata da Mario Draghi in materia di asset-backed securities, che significa semplicemente cartolarizzazione dei crediti per le PMI portati a un livello più alto, non più di sistema bancario nazionale, ma a livello europeo, anche il piccolo imprenditore potrebbe cogliere il fatto che uno scenario più largo e più ampio può dare anche alla piccola impresa delle opportunità che oggi non sono nemmeno immaginabili. E secondo lei questo manca un po' nella percezione dei piccoli imprenditori, dei piccoli e medi imprenditori? Vedere crollare un mercato interno, crollare o comunque ridursi il mercato interno senza capire che ce n'è un altro all'esterno. La quotidianità di un'impresa, in questo, dicendo questo parlo di me, non solo di me, non di altri, è una quotidianità molto aspra, molto difficile, con problemi che si accumulano l'uno sull'altro e che schiacciano e in qualche maniera rendono difficile allungare lo sguardo. Dobbiamo fare comunque però uno sforzo di apertura e di discussione, perché se rimaniamo incastrati nel gioco della quotidianità, purtroppo temo che ci siano poche soluzioni e poche luci nell'attività di impresa. Bisogna in qualche maniera creare quantomeno un orizzonte di fiducia diverso, nella consapevolezza che il momento, e quest'anno certamente, resterà un momento di durezza memorabile. Di durezza memorabile, di questo siamo convinti purtroppo anche noi, viste anche le ultime proiezioni dell'OCSE che abbiamo commentato in diretta ieri. In bocca al lupo Alessandro La Terza, in bocca al lupo a tutti gli organizzatori di un festival che quando nacque pochi credevano potesse appassionare. In realtà devo dire, vedremo quest'anno, noi abbiamo visto 15.000, 20.000 presenze, ma erano belle anche le presenze, giovani, non esperti del settore, non studenti di economia e commercio soltanto o docenti di economia. Grazie ad Alessandro La Terza, appunto vice presidente di Confindustria con la delega per il Mezzogiorno e amministratore delegato della La Terza Editori, tra gli organizzatori del festival. Adesso c'è il GR e poi invece torniamo a palla sui temi di attualità dell'economia. Mi riferisco chiaramente alla vicenda Ilva, finito il Consiglio dei Ministri, ci sono varie dichiarazioni in giro e poi ce n'è anche una che riguarda i dipendenti del PD. Ve la leggerò a questo punto dopo il GR. Torna Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni e dopo esserci occupati di Telecom Italia, anche dell'Assemblea Rizzoli Corriere della Sera e chiaramente della Borsa, che per fortuna non ha seguito Tokyo di questa mattina, il calo del 5%, ma ha seguito invece altre indicazioni, soprattutto per quello che riguarda i dati americani e anche il credere che la Banca Centrale Europea continuerà a mantenere un atteggiamento molto molto aperto e molto a favore, diciamo, dei tassi di interesse bassi. Adesso ci occupiamo dell'ILVA, dopo aver anche ricordato i temi del Festival dell'Economia di Trento, ci occupiamo della vicenda ILVA. Devo però dare un aggiornamento che avevo anticipato prima del GR, perché la situazione economica del PD è drammatica. La battuta viene facile, non solo quella economica, viste le notizie, le scissioni, gli scontri interni, però insomma la situazione economica del PD è drammatica e con l'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti diventerà inevitabile il ricorso alla cassa integrazione per i 180 dipendenti, lo ha detto il tesoriere Antonio Misiani incontrando oggi i dipendenti appunto del Partito Democratico. Allora, la vicenda ILVA, perché c'è stato oggi l'incontro tra esponenti del governo da un lato e dei sindacati, Susanna Camusso, ma anche la UIL e la CISL. Per il governo c'erano i ministri dello sviluppo economico Flavio Zanonato e quello al lavoro Enrico Giovannini. Per la Confindustria c'era il direttore generale Marcella Panucci. Questa mattina però già a microfoni di Radio 24... di Simone Spezia con 9 in punto, il ministro Zanonato aveva detto: attenzione, insomma, o facciamo un commissario unico o facciamo un commissario per risanare l'azienda, per il risanamento, scusami, della parte ambientale dell'area dell'ILVA. In ogni caso un commissario, questo lo aggiungo io, arriverà. Sentiamo questo passaggio di Zanonato. È ovvio che a pagare deve essere sempre chi è inquinato. A operare per il disinquinamento non è detto, può essere anche un soggetto che si attiva ed è credibile nel farlo per riportare la situazione in una situazione compatibile sotto il profilo ambientale, perché non ci sono soltanto delle bonifiche da fare, è un'operazione molto più complicata. L'ILVA nel produrre acciaio per ora è un'azienda che funziona, e se ci sono problemi li vedremo in una sede distinta. Ma nel tempo ha inquinato e continua ad avere degli standard nella produzione che creano su questo tema dei problemi. Ministro, si possono ipotizzare quindi due commissari, cioè uno per il risanamento e uno per la gestione dell'azienda? No, o ce n'è uno unico o l'azienda continua a gestirsi con un sistema che risponde alla proprietà, il governo dice il risanamento me lo faccio io con un commissario ad acta, tu paghi. E lei ha un'ipotesi favorita? Un commissario che è in mano tutto, non serve farne un secondo. Ma lei ha un'ipotesi favorita da questo punto di vista? So che ne dovrete discutere oggi, no? Bisogna vedere qual è la soluzione che funziona meglio, perché... Le ripeto, si tratta di affrontare problemi che hanno anche la caratteristica dell'unicità, non sono mai stati affrontati e risolti su quella scala, su quella dimensione, e sicuramente occorre una norma legislativa, si farà quindi un decreto che poi verrà trasformato in una legge. È finito intanto l'incontro a Palazzo Chigi, ci sono già varie dichiarazioni, iniziamo dalla Confindustria, perché il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci ha detto: siamo molto preoccupati per le ripercussioni che sull'occupazione e sul tessuto sociale potrebbe avere l'eventuale chiusura dell'ILVA, e chiede a Confindustria che venga garantita la continuità produttiva allo stabilimento e che la gestione dell'impresa resti in mano agli imprenditori o ai loro rappresentanti, adottando tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale, che poi è l'origine di questo nuovo sviluppo, cioè 10 di questi adempimenti non erano ancora stati fatti, però poco fa il nostro Andrea Viali ha raggiunto al termine dell'incontro anche il governatore della Regione Puglia Nichi Vendola, il quale sostanzialmente vede con favore l'introduzione di un commissario, e quindi diciamo non confondere la vicenda dei Riva con la vicenda dell'azienda Ilva. Credo che si stia consolidando un orientamento che io considero quello che va nella giusta direzione. La giusta direzione è la separazione della sorte della famiglia Riva rispetto alla sorte della fabbrica dell'Ilva. Devo dire che è sempre più difficile immaginare che chi è responsabile di una condizione che viene connotata come disastro ambientale possa essere in qualche maniera il bonificatore, così come è difficile immaginare che chi ha operato per conto della famiglia possa operare per conto dello Stato in un provvedimento di commissariamento. Immagino che ci debba essere un unico commissario che gestisce l'applicazione delle prescrizioni dell'AIA e l'attività degli impianti. Sono un po' perplesso rispetto alla possibilità di separare bonifica ambientale e produzione degli impianti. So che anche il dottor Vitaliano Esposito, il garante, si è espresso favorevolmente nei confronti dell'ipotesi di commissariamento. Credo che sia consapevolezza ormai larga delle forze sociali, delle forze politiche. Questa è la necessità di oggi. Il caso Ilva ha un rilievo mondiale, ha una sua assoluta straordinarietà ed è giusto che il governo operi con un approccio non burocratico, ma con grande coraggio politico e intellettuale. E sulla stessa linea anche il segretario della FIOM Landini, sempre a microfono il nostro Andrea Viali. Per quello che mi riguarda e ci riguarda, abbiamo detto in esplicito che la legge 231 è stata fatta per salvare l'Ilve, non per salvare i Riva, e che quindi è necessario che una legge che c'è già venga applicata con tutti gli strumenti che sono necessari. Tanto più, con le notizie che qui sono state dette, mi permetto di dire, non c'è più tempo da aspettare, è necessario agire immediatamente per intervenire, perché l'unico modo è quello, come dice la legge che cita anche gli articoli della Costituzione 41 e 43, c'è un percorso indicato molto preciso e oggi è necessario, se si vuole salvare l'Ilva e il sistema siderurgico del nostro Paese, c'è bisogno che quegli interventi, anche con un ruolo dello Stato e del pubblico, siano realizzati. E in più io ho colto, ma questo è un mio giudizio, anche positivamente, un ragionamento che dice in esplicito che il governo attuale non vuole contrapporsi in nessuna forma alla magistratura e che intende fare in modo che l'intervento legislativo sia coerente con la legge che è stata fatta per affrontare anche il problema che per il risanamento c'è bisogno che la ricchezza che il lavoro aveva prodotto e che qualcuno aveva utilizzato in altra forma venga invece utilizzata per fare il risanamento. Questa è la vicenda politica dove appunto, come ha detto lo stesso Zanonato, a questo punto il governo sta decidendo se avere un commissario unico oppure avere un commissario che gestisca il risanamento e lasci l'azienda continuare a gestire la parte produttiva. Dopo il traffico però vorrei allargare il tema, questa è l'attualità e la cronaca, a come non tanto il gruppo, l'abbiamo raccontato in questi giorni, ma l'intera città di Taranto stia vivendo questo ennesimo capitolo di una vicenda. Io lo ricordo sempre perché oltre all'impatto produttivo, l'Ilva infatti fornisce tantissime altre acciaierie e tantissimi altri trasformatori di acciaio, e sarebbe un disastro il blocco delle attività, vorrebbe dire uscire dalle forniture di acciaio, perché poi quando le perdi non è che tu le riesca a riacquistare in maniera così facile. Ma ricordo anche sempre che Ilva vuol dire a Taranto 20.000 dipendenti più altri 20.000 nell'indotto. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri SMS. dicevamo dell'Ilva, non è solo la continuità aziendale fondamentale, non è solo anche l'ottemperare a quanto richiesto per l'autorizzazione integrata ambientale e quindi la messa in sicurezza degli abitanti di Taranto e soprattutto dei quartieri vicini all'Ilva. C'è un'intera città che vive con un doppio animo, un doppio sentire in questa vicenda, come raccontava in questi giorni su Sole 24 Ore Mariano Maugeri, che è ancora a Taranto. Mariano, buonasera. Buonasera a te, ciao. Deve essere difficile, glielo dico con la massimo rispetto e serietà, gestire una vicenda e metabolizzare una vicenda come quella dell'Ilva, quando tu da un lato dall'Ilva in buona parte dipendi, in una città come Taranto, ma dall'altro all'Ilva attribuisce anche grandissime colpe per quello che sono stati gli effetti sulla salute dei tarantini che abitano in quella zona. Mariano. Sì, la città, ma io parlerei di provincia, perché sull'equivoco città-provincia ci marciano in molti. In realtà il 70% degli operai, dei 12.000 operai, arrivano dalla provincia e quindi una minima parte sta a Taranto. È altresì vero che Taranto ha i danni maggiori, le conseguenze negative più rilevanti, quindi è ovvio che i tarantini vivano questa cosa con grande partecipazione. E devo dirti che in questo momento, cioè in questi giorni, c'è una calma irreale che potrebbe preludere poi dai gesti estremi in qualche modo. Speriamo di no. Esatto, speriamo di no, e tutto dipenderà dal pagamento degli stipendi del 10 di giugno, quindi tra poco più di una settimana, 10 giorni, ci sarà il momento della verità. E sono successe talmente tante cose che tu hai raccontato poi nel corso dei mesi, anch'io, Domenico Palmiotti, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, per cui è come se la gente si partecipa, per carità, ha delle idee ormai precise, c'è una spaccatura, chi sì e chi no, ma è come se la città non ne potesse più, in qualche modo, anche perché le logiche a questo punto passano al di là di Taranto, cioè c'è il governo, c'è la procura di Taranto, che a questo punto continua a pestare duro, malgrado una sentenza della Corte Costituzionale, malgrado una legge, la 231, cosiddetta Salva Ilva, e c'è un conflitto di poteri che sembrava risolto appunto con un pronunciamento della Consulta, ma che in realtà neppure sotto traccia, ma in modo esplicito, continua ad operare. Questa volta siamo vicini al punto definitivo di rottura. Oggi ero in procura, ho fatto una domanda al volo al procuratore capo e loro dicono: ne siamo ben consapevoli, ma noi andiamo avanti per la nostra strada perché così ci pone la legge. Raccontavi bene, insomma, anche lo smarrimento. È vero che in questo momento, siccome si discute se commissario totale o commissario solo per il risanamento, lasciando l'azienda poi la gestione, sono scelte che passano da Roma e non più da Taranto, ed è immaginabile anche lo smarrimento. Che cosa non è stato capito soprattutto? Perché è appunto, bravo, è arrivata sul commissariamento, ecco. Però ci terrei a dire una cosa. Dimmi. Perché l'azienda è già commissariata, infatti questa vicenda mi sembra un po' di lana caprina, oziosa. Allora, un amministratore delegato che Bondi sicuramente non messo lì da Riva, no, ma dal governo, no, certo. dalle banche, un presidente, un prefetto della Repubblica, nonché ex vice capo della polizia, messo lì anche lì sulla base di una concertazione. In Riva il vecchio Emilio ai domiciliari da un anno, il figlio non fuggiasco nelle mani della polizia britannica in attesa non si sa bene di rientrare o di non rientrare. L'azienda di fatto è stata espropriata e io non so se in punta di diritto questo sia corretto. Cioè, siamo un paese totalitario, è un paese dove ancora la proprietà privata ha un senso? Mettiamo un altro commissario, Bondi non va bene, che è un uomo di provata fede, civil servant come si dice, ha fatto tante cose utili nella sua vita, allora, oppure ne mettiamo addirittura due, uno a gestire la fabbrica, un altro a gestire non si sa bene che cosa. Qui rischiamo di fare dei pastrocchi micidiali. La legge c'è, il pronunciamento della Corte Costituzionale c'è. Come mi dicevano oggi in procura, ecco, sì, bisognerebbe fare un'altra legge, però non si ripeterebbe un meccanismo che già abbiamo visto all'opera e quindi, boh, non non so se quella sia la soluzione. Sì, questo è chiaro. C'è anche perplessità perché, insomma, questa seconda fase della vicenda inizia nel momento in cui la Procura di Taranto sequestra 8 miliardi e 100 milioni di beni della Riva Fire, non è FAIR, lo dico ogni volta, è un acronimo italiano, il che blocca di fatto il pagamento ai fornitori, il pagamento anche forse degli stipendi, abbiamo visto la rivolta dei capi reparto, cioè blocca la liquidità. Ora è chiaro che la Procura si è mossa all'interno della legge, ci mancherebbe, applicando la legge, per cui per i mancati, per diciamo, risarcirsi sui danni ambientali, ha bloccato 8 miliardi, però insomma è una scelta che poteva... che è avvenuta anche in un momento molto delicato. Si è, questa cosa è stata capita, diciamo, da Taranto e soprattutto da chi ha a che fare tutti i giorni con l'Ilva? Sì, ma sembra un nuovo capitolo di questa guerra tra potere politico e potere giudiziario, sostanzialmente. E, tra l'altro l'importo, come sai, è estremamente alto. 8 miliardi. Esatto, tre volte il valore dell'AIA, e mentre una stima, questa è la stima. L'AIA è l'autorizzazione integrata, sì, esatto, ambientale, quella che, insomma, a cui l'IVA deve ottemperare per fare quello che il governo gli chiede, quindi per mettere in sicurezza l'impianto dell'IVA, diciamo. Esattamente, tutta a carico dei Riva, quindi sì, non che, sono che è più o meno 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi, sono, ricordo, esatto, il costo complessivo. 2,5/3, beh, è una stima perché si capirà più avanti, sono lavori. Certo. Titanici, come per esempio bisogna rifare la FO5, che è il più grande altoforno d'Europa. E no, sembra un altro capitolo di questa guerra, francamente. E la cifra è alta, in procura dicono sì, ma poi faranno ricorso a riesame, magari il riesame abbassa la cifra, e ci tengono a sottolineare che non hanno toccato nulla dell'Ilva SPA, della Riva SPA, che è la società che poi gestisce di fatto la fabbrica. Quindi un po' forse pilatescamente dicono, ma Riva Fire è un'altra cosa, attiene ad altri quattrini, ti fanno capire poi che ci sono appunto questioni, come sai, quelle di cui si è occupata la Procura di Milano, cioè del miliardo scudato che è rientrato, e quindi secondo la Procura di Taranto ci sarebbero altri quattrini fuori dall'Italia. In qualche modo c'è in atto da parte dei giudici di Taranto un'opera, una critica radicale nei confronti della famiglia Riva per quello che ha fatto a Taranto e per quello che ha fatto fuori Taranto. Sì, tu facevi bene a far notare che di fatto l'Iva è già in pratica commissariata, e un commissario come Enrico Bondi non l'hanno scelto i fratelli Riva, obiettivamente. Appunto. Ora è quello che ha risanato la Parmalat, non dimentichiamolo, cioè un uomo di provata abilità, oltre che, diciamo, appunto, come dici tu, civil servant. Vorremmo capire a che cosa stia pensando il governo quando parla di un commissario, tenere Bondi, anche perché serve un commissario che sappia dove finisce, perché non possiamo perdere altri 3, 4, 5 mesi per capire come funziona l'IVA. Temo che continuiamo a occuparcene, anche oggi comunque è stato interlocutore l'incontro del governo con sindacati e Confindustria. Grazie intanto a Mariano Maugeri in collegamento con noi da Taranto. E da Sebastiano Barisoni gli auguri di una buona serata. Noi ci risentiamo domani, come sempre, dalle 17 in poi, da Trento, però Piazzetta Pasi, dagli studi di Radio 24. Radio 24. La passione si sente.